stamattina, venendo giù da casa, mi chiedevo cosa è bene fare. Io non lo so mai prima, come faccio a sapere? Dipende dalla gente che c'è, no? Dipende dal clima. E noi crediamo di essere, spesso crediamo di essere persone che finiscono qua. Questo è un errore tremendo, non è così. Siamo dei flussi energetici che si scambiano. Il flusso arriva là, arriva lì, il tuo viene qui, arriva lì, cioè. Se lo vediamo dal punto di vista non della fisica newtoniana, della fisica attuale, sappiamo benissimo che il nostro corpo è qua, abbiamo un campo elettromagnetico intorno, i nostri suoni arrivano lontani, i nostri odori arrivano lontani, ci influenziamo continuamente e possiamo influenzarci in modo dato, oppure influenzarci in modo altro. Come stai? Che problema che c'ho qua. Allora, abbiamo creato una cultura fantastica, e di questo dobbiamo parlare, che per garantire ad alcuni di vivere così, richiede ad altri di vivere così. Come sta? Come vuoi che stia? Allora, questo è il problema. Però quelli che stanno così sono quelli che sostengono quelli che stanno qui. Sostengono insieme. Capito questo? Dobbiamo sapere che al nostro interno ci sono tutte e due le parti. Quelli che stanno così. Come sta? Quelli che stanno qui. Poi si va all'università e si va all'università. Beati quelli che si incazzano. beati quelli che gli stanno intorno perché sentono sto vulcano. Basta, cambia. Ma quelli che stanno intorno. Pensi. Ma pensateci bene, non so se la reincarnazione esiste, non lo so, proprio nessuno, cioè, condizioni. Ma comunque, mi affacci questa immagine. Se doveste rinascere, porca miseria, in che cacchio di famiglia volete rinascere? In una famiglia in cui si vede così. Preferisco passare la notte. Il bambino dovrebbe crescere imitando i genitori, a diventare come loro. Ma non gli fa così se viva! Così gli fa! Però se gli fa così viene punito. Scarica elettrica delle palle. Scuola. A scuola. Dio mio, ma vi ricordate cos'è la scuola? No, perché non vi ricordate un cazzo. Però se vi ricordaste cos'è la scuola, ci siete stati? C'era l'energia vitale che fluiva o no? Vi ricordate di sì perché mentite. E non vi ricordate. Ma chi c'è stato e si ricorda sa benissimo che la scuola dell'energia vitale non c'è. E quello è il modo in cui a un giovane si insegna a essere così. Poi per forza devono, cazzo, devono alcolizzarsi, passare le notti in discoteca fino alle 4 del pomeriggio, ormai perché ormai non ci vanno in discoteca. Ma è vero, in discoteca ci si entra alle 4 e mezza di notte e si esce alle 4 e 5 del pomeriggio. Dico questo perché ho vissuto in tante istituzioni e non ci sono dubbi. Se sia un minimo, a me è rimasto un centesimo di parte libera, non pensate che sia un centesimo, mi è rimasto col quale riesco a vedere il mondo. Quando andavo nelle varie facoltà al conservatorio di musica, non c'è da sbagliarsi. Chi rimane che ha una parte libera lo sente qual è l'energia. Se c'è un'energia vitale che sprizza o se c'è un'energia di morte, in cui le persone vengono, ti viene insegnato a reprimere, comprimere, bloccare quella che è la nostra energia. Attenzione, quando si fanno questi discorsi di solito le persone dicono ho capito, la colpa è tutta di questi che stanno, li togliamo via, via li togliamo e vivremo bene. Qualcuno di voi ricorda come è finita la rivoluzione francese, qualcuno di voi ricorda che è finita quella sovietica, come è finita in Vietnam, quando ne togliete uno di questi se ne forma subito un altro, di solito peggiore. La ragione è che questa struttura non è fuori di noi, è tutta dentro, qua, nei blocchi energetici che abbiamo, per cui la nostra energia vitale è un terzo, un quarto, un quinto di quella vera. E quindi quando abbiamo dietro un bambino abbiamo fatica perché ce n'ha più infinitamente di più, perché ancora non è stato compreso. Adesso qua dentro dovremmo decidere come vogliamo vivere. Se vogliamo vivere dentro questa struttura, si mangia da dentro, proprio così, possiamo andare verso la liberazione, ma non verso i confronti del mondo esterno. Non c'è nessuno che può mettersi di sopra. Se io sono una persona libera, c'è una persona che fa così, io rimango libero. Chiaro, lui può mandare un gendarme e mettermi in galera, mi può costringere fisicamente, ma non mi può uccidere. Invece noi siamo abituati a farci uccidere dentro senza neppure costrizioni fisiche di alcun tipo, ce le facciamo da soli. La grande intelligenza del sistema del potere è che non c'è più bisogno di poliziotti, di gendarmi, di niente, perché hai inoculato dentro il sistema del potere. Dopodiché noi funzioniamo come automi, in cui basta schiacciare quel tasto e viene fuori quella risposta. Però noi siamo esseri liberi come fondamentalmente, quindi possiamo trovare questa libertà. Oggi credo che sia giunto il momento storico nel mondo in cui si sta muovendo questa nuova energia, la capacità di capire chi siamo. Ne parleremo a fondo in questo seminario. Non siamo quell'immagine di uomo che ci è stata venduta. Non esiste proprio questa storia, una stronzata. Immagine. È chiaro che se crediamo a quella roba lì, diventiamo quella roba lì. Basta. Allora Ale fa già un po' di anni, quindi sta invecchiando, fa già quasi 12 anni, il momento quasi di chiudere. Perché poi si deve rinnovare, diventare qualche altra cosa. Da adesso in avanti dobbiamo fare innanzitutto internamente Ale una evoluzione. Voglio veramente che le persone che stanno dentro questo percorso abbiano capito questo e lo pratichino nella vita. Per cui non mettono mai più la palla che è il mondo esterno che genera in noi queste stronzate. Non è così. Finché crediamo a questa stupidaggine che viene venduta a ogni luogo, non abbiamo nessuna possibilità di cambiare, perché dobbiamo tirar giù le persone di potere e appena ne tiriamo giù ne saltano altri due, altri quattro, altri otto, altri venti, e soprattutto se li buttiamo giù tutti c'è quello più terribile, quello dentro di noi. Allora, se qualcuno di voi si alza al mattino che non ha una carica di entusiasmo, che a mezzogiorno non ce l'ha, che la sera non ce l'ha, sappia che al suo interno c'è qualcuno di questo tipo che funziona. E va giù duro, eh? Questo è il vero peccato. Se lo vedessimo vedere dal punto di vista religioso, il vero peccato è che l'essere umano non capisce nulla di chi è, non lo sa, non ha capito niente. E c'è una tale fede negativa in giro che è stata coltivata con grande abilità. I risultati si vedono. Ma la buona notizia è che tutto questo è un'illusione. E che quindi tutto questo può cambiare. Non abbiamo visto persone che erano in seggiola a rotelle, così non muovevano più, che in un gruppo dove l'energia circolare, dove c'era il permesso di essere veramente se stessi e non più l'elezione, le pecore, ma dove l'energia vitale degli esseri umani c'è. Ho visto persone che alla fine riescono quasi ad alzarsi, e alcune ad alzarsi. Non c'è niente di strano in questo. Persino l'indicato risente il contesto che trova. Questa battaglia che va avanti da tanti anni, ho visto persone che riescono a fare delle cose, sono fantastiche, penso solamente a due che mi vengono in mente, il primo, Giulia Cremaschi, e l'altra, come si chiama? La Guerra Lisi. Ti fai proprio capire che non c'è limite dentro l'essere umano, limite proprio. Quest'oggi faremo in modo che possiate contattare davvero quella la via per sciogliere l'oppressore in te, questo muro. C'è praticamente in ognuno di noi se vissuti in questa civiltà. Sappiate che noi siamo andati a colonizzare l'America, quanti di voi hanno letto la storia del popolo americano? Io ho letto quella degli indiani. Americano. La storia del popolo americano di Howard Zinn. No, beh, quella no, ne ho letto. In America, se si chiede quante persone hanno letto Howard Zinn, credo che pochi. Però tutti noi festeggiamo il Columbus Day, non sappiamo cos'è. Però tutti abbiamo un'istruzione secondaria e molti addirittura universitaria e alcuni una specializzazione, alcuni due là. Non sanno la storia, non hanno letto la storia del popolo americano. Ora, l'America è stata sempre considerata una civiltà importante. Ovviamente lo è, del nostro tipo di civiltà, è ovviamente la più potente, fino a poco tempo fa lo è. Ma su cosa è nata, con che principi, come Colombo, come i suoi seguaci hanno trattato quelli considerati primitivi allora, Oggi sappiamo dagli antropologi che quelle civiltà, non tutte, ma alcune di quelle civiltà avevano uno stato di avanzamento, di consapevolezza che oggi noi ci sogniamo, non dico allora, oggi, altro che diritti umani. Non esistevano i tribunali, esisteva la giustizia riparativa, se uno faceva un torto veniva portato a che cosa? A rimediare, non essere troppo immaginato. Cosa che adesso si comincia a di cui noi cominciamo a parlare. Guardate le nostre carceri, sono dei covid di delinquenza pagati dallo Stato che diventano sempre peggiori. Questo è tutto il caso. Definizione di carcere, per alcuni esseri umani vengono rinchiusi per rendersi peggiori. Negli Stati Uniti ci sono un numero di carcerati impressionante. Qualcuno di voi sa quanti sono? In Italia sono meno di 100.000, negli Stati Uniti sono 2 milioni. Quasi una persona su 100. E che cosa significa questo se lo guardiamo bene? Vuol dire che una società costruita su basi erronee, queste qua, che genera se stessi. Quindi le carceri sono i luoghi dove vengono le persone più emarginate finiscono lì dentro, dove coloro che dovrebbero finirci se ne stanno ben lontani, bellissime ville, accuditi e riveriti da tutti gli altri. Una società così è una società così ingiusta che non può proliferare. Cioè, ormai siamo a un punto in cui la coscienza umana comincia ad avere chiarezza di queste cose, giusto? E questo è un momento magico da un certo punto di vista, perché o passiamo questa fase o finito. Quindi è un momento in cui le forze si stanno premendo, e in termini lunghiani c'è un termine che si chiama molto bello, si chiama enantiotromia, cioè corsa al contrario. Fino adesso c'è una tale pressione nel creare sempre più prevaricazione, sempre più schiavitù, che per forza di cose succederà questo. La storia è accaduto infinite volte, ma semplicemente si è ribaltato, no? E si è sostituito le persone al potere con altri, non cambia niente. Oggi c'è una coscienza diffusa che ha compreso che non è il problema di chi sta al potere, il problema è il potere, il problema è la struttura di potere che è dentro di noi, che è quella struttura che fa sì che noi siamo spaventati, che noi abbiamo paura, ricerchiamo il potere e controllo per soddisfare la paura, e siccome tutto questo non dà gioia, abbiamo bisogno di trovare la gioia in piaceri secondari che sono utilissimi per l'industria agroalimentare, per l'industria del tabacco, degli alcolici, delle droghe, tutte queste cose. Bene, la grande rivoluzione è in tutto il mondo in atto. C'è un bel libro che si chiama La moltitudine arrestata. L'autore ne ha fatto in modo che su internet ci fosse metà del libro pubblicato, perché ritiene così importante che il suo messaggio arrivi ovunque, che la moltitudine arrestata l'ha trovata solo. Chiarisce bene che nel mondo ci sono da 1-2 milioni, ma non milioni, di organizzazioni che stanno lavorando per questo parlamento. Naturalmente queste organizzazioni non hanno soldi, non hanno mezzi, sono ostacolati in tutti i modi, ma non le riescono a fermare, non ci riusciranno mai. E nel libro c'è una bella metafora. Queste organizzazioni assomigliano al sistema immunitario, che non è gerarchico, perché dove c'è gerarchia colpisce al centro, come dice tutto, è a bassa intensità, è diffuso. E così queste organizzazioni